andate intanto acque più liete, e giunte al vostro mar spingete il corso, seppur vi dice, ove libero il Tago, tan prezioso il suo Nettuno il Lidi, ed ogni ninfa lor che vi diviri, si chiara e si contente, dell'aurora che nacque inchini il lume, e tutto gli voi rappisi il suo bel lume. Thank you. soprano, un diadema regale adorna il crine. Crescono a lei vasalle, l'indiche gemme e le peruvia rene. Thank you. niente.